Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Mi faccio portavoce di quello che mi è stato fatto capire, detto chiaramente, riferito, pregato di trasferire pubblicamente da un'infinità di ascoltatori che con me hanno seguito Sanremo. Noi il canone lo paghiamo, però per favore, almeno non prendeteci per il culo. Comici sono alla frutta, senza scaiola né borghezio. Emerge, si raccoglie fondi per la litizzetto e Fazio. Non c'è uno straccio di intercettazione. Le escort sono in cassa integrazione. Emilio Fede va in pensione. Ho visto Nanni Moretti. Io sono sempre stato dell'idea, per i tanti anni che ho osservato con attenzione, con divertimento, anzi con lussura, la televisione, che in realtà la rete ammiraglia del servizio pubblico italiano riflettesse gli italiani, riflettesse la pancia degli italiani, riflettesse la maggioranza degli italiani, riflettesse il sentire generale degli italiani. Quindi non mi sono mai fortemente scandalizzato se non mi trovavo in linea, non mi trovavo omologabile, non mi trovavo simile e assimilabile a ciò che vedevo. Guardavo con un grande divertimento e un grande interesse questa televisione, dalla quale mi sentivo totalmente alieno, però ammettevo, riconoscevo che i sintomi e gli esiti di questa televisione li vedevo poi spalmati nel mio quotidiano, nei miei colleghi, nella mia famiglia, nelle persone che frequentavo, nella gran parte delle persone preposte al mio lavoro, alla mia serenità, alla mia felicità, al mio quotidiano. Se il Festival di Sanremo rappresenta la punta più alta del servizio pubblico e nella rete più alta del servizio pubblico, significa che il Festival di Sanremo rappresenta gli italiani. Quindi significa che quello che abbiamo visto ieri sera, io assieme a qualche decina di migliaia di persone che seguiva con me attraverso Twitter, un giochino divertente, il commento a tempo reale di quello che noi vedevamo, minuto per minuto, potevamo esprimerci liberamente, i nostri commenti si contaminavano con i commenti di tanti altri. Non serve niente, ma è un motivo in più per dare conferma di ciò che noi stavamo da tanto tempo sostenendo. Questo Sanremo siamo esattamente noi, non ci tiriamo fuori, nessuno di noi si tira fuori. Guardate, quello che vorrei fare questa mattina è non fare la solita trasmissione cattivella che faranno tutte le radio, da Radio Condominio fino alle eccelse reti della RAI, ma vorrei semplicemente capire quanto noi in realtà riflettiamo e osserviamo la realtà che ci circonda in questo Sanremo. L'incipit. L'incipit è iniziato con una replica. Sanremo è iniziato facendo vedere qualcosa che è stato già mandato in onda l'anno scorso. Lo sketch di Luca e Paolo, che l'anno scorso aveva una patina di intrepidezza, osavano nel luogo sacro della rappresentazione del potere governativo scherzare e ironizzare sul dissidio Fini Berlusconi. Parte esattamente con la replica dell'anno prima. Già c'è qualcosa di fatale in questo, c'è qualcosa che tende a confermare questo senso di disfatta, di sconfitta, di apocalisse prossima, di passo sull'orlo del precipizio che ha certificato questo Sanremo. Iniziano parlando, facendo vedere un pezzo del loro sketch di l'anno scorso, poi vengono loro in primo piano, lo sketch era in un televisore, e loro ironizzano sul fatto che i comici non possono più essere tali perché non c'è più Berlusconi. Inizia questo festival con una sorta di atto terrificante, di vacuum di ispirazione comica, perché non ci sono più bersagli. In realtà loro prendono in giro Fazio, Litizzetto, Michele Serra, tutti comici di sinistra. In realtà era molto, se vogliamo dare una chiave politica a questo festival, che poi a un certo punto di cui si è persa anche il portato politico, almeno una volta quando la politica metteva le mani su uno spettacolo, cioè metteva in maniera molto potente, molto sonora, molto tetragona e inverificabile, capito? Incontrovertibile. In questo caso non si è capito che si è partito prendendo per il culo i comici di sinistra che non c'hanno più niente da dire perché non c'è più Berlusconi. Vero, certificato, ma cosa c'entra col festival? In assoluto. 800 24 0024, mi consiglia Fabrizio Intonti, cominciate a telefonare e ditemi se voi ieri sera avete guardato il festival, non vi trincerate dietro le solite baggianate, non guardo più la televisione, meglio un buon libro, e non guardo il festival. No, il festival va guardato, va seguito, bisogna osservarlo, bisogna capirlo, che attorno a questo evento si è creato da mesi un'attesa, da mesi sono mosse persone, cervelli, politica, economia, industria, imprenditoria, fate bene fratelli, tutte queste cose qua, perché se ne è parlato da tanto, da mesi, per vedere questa cialtronata immensa, che sembrava una sorta di dilatata e allungata recita dopo lavoro, sembrava di vedere noi quando a scuola dovevamo fare queste recite con le maestre che ci scrivevano le battute, eravamo il frutto innocente delle velleità di tante maestre. Ma chi sono le maestrine che sono strapagate per farci vedere questo spettacolo? 800 24 0024. Sentiamo se la giuria ha votato per Samuele Bersani. No, ancora no, ancora no. Bene. C'è un problema? Si è bloccato il sistema. Ma no, non è possibile. Ma quest'anno succedono tutte, com'è possibile? Avevamo una bellissima ragazza di 19 anni, pensate, Ivanka Mrazova, che noi, insomma, la stiamo facendo vedere anche negli spot, nei giornali, le copertine, tu. Ha avuto un blocco, non riesce a muoversi, sta veramente... No, e non può essere presente questa sera. Qui si blocca la giuria, siamo veramente messi... Che succede? Si può andare avanti oppure no? Già, no, si può andare avanti oppure no? Chiamate 800 24 0024. Due erano i grandi interrogativi sull'incipit del festival. L'uno, diciamo, corroborato dal clima di incertezza che aleggiava nella piazzetta di fronte al Teatro Ariston, che poi è un buchettino di piazza, voi immaginate chissà cosa sia, una piazzetta di paese, un buchettino con sto teatrino che Teatro Ariston, ma se ne ci passaste davanti inconsapevolmente vedreste un teatruccio di paese come tanti altri. Beh, quel pomeriggio c'era la Guardia di Finanza, perché hanno pensato che in quel momento era il caso, e quindi stavano tutti un po' stretti, dai primi agli ultimi, dai grandi ai piccoli, quindi c'era questo clima di disagio, tutti se ne erano mettere le mani in tasca e gli occhi nel registratore di cassa, quindi già questo aveva creato uno scompenso. Poi i due grandi problemi di tipo tecnico, due favolose macchine di piacere e di soddisfazione si erano rotte improvvisamente. L'una era il meccanismo che permette la votazione, non si è votato, non c'è stata gara, la giuria, c'erano 300 persone che non hanno potuto votare, si è capito dall'inizio che non si votava perché andavano le canzoni e nessuno chiedeva un giudizio, nulla. A un certo punto l'incipit del festival della canzone non era un festival della canzone perché si è rotta la macchina del voto, non si capisce perché, chi ha dato l'appalto, che ditta fa queste macchine, quale affidabilità danno queste macchine, un giro così grosso anche da un punto di vista economico, che poi di cui parte siamo anche noi che paghiamo il canone naturalmente, con delle macchinette che si rompono il primo minuto che dovrebbero votare. Altra grande macchina del piacere che si è rotta è Ivanka, la conduttrice. Ma quale sforzo ha fatto per rompersi l'osso del collo? Cosa l'ha provocato il torcicollo? Quale improprio movimento è stata sottoposta questa povera ragazza per essere così fortemente lesa nella sua funzione di valletta? Io su questo ho bisogno di conforto, non posso farcela da solo perché io mi sono limitato ieri a guardare Sanremo al televisore e twittare come un disperato, minuto per minuto, trovate traccia nel profilo Facebook di Melog, minuto per minuto quello che vedevo. Ma c'è una persona che, come innocente cavia, che come guerriero in prima linea, era a seguire Sanremo dal Teatro Ariston, che è Marta Cagnola. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie per l'innocente. Cavia non so, ma innocente mi piace molto. Ma sì, a me piace sempre proclamare l'innocenza delle mie gentili colleghe. E da cosa partiamo? Dai numeri? Non se, da quelli della. Se tu hai già i numeri, che tu hai aperte le agenzie e se hai già i numeri di Sanremo, dacci subito i numeri, che mi sembra la notizia. Io ti faccio, non li so, non li conosco, faccio un pronostico. Siccome a me ha fatto schifo, avrà avuto un grande successo di pubblico. Ma Sanremo funziona così, non dobbiamo stupirci. No, non mi stupisco, ma è normale. Gianni Morandi batte se stesso la prima serata. Perfetto. Del Festival di Sanremo, segnata dalla lunga performance di Adriano Celentano, ha ottenuto nella prima parte 14.378.000 telespettatori, pari al 48,51% di share. Perfetto, è stato un successo. Superiore all'esordio del Festival 2011, 14.175.000, 45,20%. Allora, Marta, tu che sono anni che segui Sanremo, hai una profonda e molto più articolata la mia conoscenza dei meccanismi di questo festival. Io partecipai a un Sanremo, feci un dopo festival e mi nacque anche un figlio, pensa un po', me ne accaddero di tutte quel giorno e da allora me ne sono tenuto ben lontano. Dimmi esattamente se sai qual è l'algoritmo che muove questo meccanismo. Io sono convinto che il campione medio, l'abbonato in prima fila e il campione Auditel che poi determina il successo di Sanremo non può avere una resistenza fisica come quella che abbiamo avuto noi, corroborati da sostanze psicotrope, di arrivare fino alla fine. Io penso che a un certo punto, quando ci trovavamo all'inizio del monologo di Celentano, avranno staccato il catetere, messa la dentiera nel bicchiere, hanno detto noi ci andiamo a dormire, non ce la facciamo più, ci pigliamo la pillolina e buonanotte. E invece l'hanno visto, l'hanno guardato. C'è qualcosa che evidentemente sfugge alla nostra capacità di controllo. O magari sono andati a dormire ma hanno spento la macchinetta dell'audio. Ah, l'hanno lasciata accesa. L'hanno lasciata accesa e quindi insomma... Ma insomma, devo dirti che Sanremo ha un meccanismo assolutamente a sé stante nella televisione italiana. È un grande evento in un'epoca in cui i grandi eventi non esistono più. È un evento in cui non c'è proporzionalità tra la qualità né dell'aspetto televisivo né dell'aspetto musicale e gli ascolti, non c'è mai stata. In questo caso sono stati bravissimi, e io credo che tutto sia avvenuto un po' per caso, non credo a una regia così sopraffina, a creare... No, la regia era pessima. No, ma non intendo quella... La regia di studio era veramente pessima. Raramente ho visto una regia così. Nel creare l'attesa nei confronti di Celentano, perché anche quello è un mistero. Quindi è una macchina del preliminare, una macchina erotica che funziona molto su preliminari, poi non si preoccupa naturalmente di far raggiungere l'acme durante l'atto, perché il preliminare già appaga sufficientemente. Basta dire arriva Benigni, basta dire arriva Celentano e chiunque lo guarda, anche per criticarlo. Sì, insomma, sì, ci siamo caduti anche noi. Che noi guardiamo i relitti delle navi affondate, non è dai tempi della Concordia ma del Rerum Natura di Lucrezio, ci piace guardare la nave in tempesta e quindi non è detto che se il programma è brutto non lo si guardi. Allora fermiamoci un attimo, Marta, mandiamo, anche se questa mattina già ampiamente tutti i telegiornali, i giornali radio, compreso il nostro, hanno già dato il clou di quello che è stato l'evento dal punto di vista della cronaca di Sanremo. Ce l'aspettavamo, Celentano che ha attaccato i preti, questa è la sintesi. Celentano che si sembrava rappresentante comunque di un mondo tendente alla spiritualità, a un senso di vita religioso, in realtà ha fatto il doppio salto mortale prevedibile, si è comportato come uno stilita, come un predicatore nel deserto, ma un monaco esicasta, può sì gettare tuoni contro la Chiesa, contro i rappresentanti appunto della fede cristiana, ma lo può fare da un deserto, lo può fare da in cima a una colonna, lo può fare dalla sua scelta di perfetta miseria. Non può farlo certo Celentano. Noi siamo nati per vivere, voi preti siete obbligati a parlare del paradiso, altrimenti la gente pensa che la vita sia quella che stiamo vivendo adesso. Ma che cazzo di vita è questa qua? Lo spread, l'economia, le guerre. Giornali inutili come L'Avvenire e Famiglia Cristiana andrebbero chiusi definitivamente. Si occupano di politica e delle beghe nel mondo anziché parlare di Dio e dei suoi progetti, e non hanno la più pallida idea di quanto invece può essere confortante per i malati leggere di ciò che Dio ci ha promesso, senza contare poi i malati terminali. Che anche se non lo dicono... Devo dire onestamente, lo scorticamento gonadico a questo punto era nelle sue vette più sublimi, perché sentire discorsi così portasfiga, così profondamente distruttivi in un momento in cui la gente vorrebbe avere un po' di relax è veramente contro natura, ma considerato anche che lui se la prende con L'Avvenire e con Famiglia Cristiana non perché si sente offeso dalla secolarizzazione di questi giornali, avrebbero osato dire che in realtà non era giusto lui prendesse tanti soldi, ma soprattutto non era giusto, cosa che disse il buon Vinicio Albanesi ai nostri microfoni, che facesse della sua pretesa di beneficenza uno spettacolo. Osando dire questo, è stato attaccato da Celentano. Il vero brivido l'avranno avuto i dirigenti Rai, le direzioni sublimi della Rai, che in realtà in questo fronte hanno gran parte dei loro sostegni. Sentiamo qualche ascoltatore. Domenico. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Voce all'abbonato in prima fila. Lo so. Purtroppo quello che dovevo dire io l'ha già detto la sua ospite, perché la mia ospite Marta Cagnola è una delle punte di diamante dell'osservatorio giornalistico del festival. No, perché Celentano alla fine è stato invitato solo ed esclusivamente perché tutti le fa finire che lo guardano. Quello che bisogna dire di Celentano è che non riesco a trovare un aggettivo, ecco, bravo, peggiore di patetico. Perché quello che ha detto è solo ed esclusivamente patetico. Cioè, sì, vabbè. È tutto lì. Poi, qualcuno dà l'impressione, si notava questo calo del freno inibitorio proprio dell'età avanzata, sragionava un po', ma sempre sragionato. Solo che l'ha fatto a volte in cornici esteticamente più accettabili. Questa volta era miserrimo l'effettino elettronico della guerra, dei bombardamenti, di Morandi che finge che improvvisamente al teatro Ariston con le fiamme elettroniche, ma nemmeno in un'applicazione gratuita per l'iPad ci sono questi giochettini. Beh, questa insomma era la regia. Sentiamo Dante. Dante. Allora, buongiorno. Sì. Io telefono da Ascoli Piceno. Bravo, sotto la neve. Guarda, dunque, sì, sotto la neve tanta. Volevo dirle che io vengo da circa mezz'ora fa, ho avuto una lezione a scuola, sono un insegnante, e usando dei termini per far capire un po' Vincent Van Gogh, mi sono sbracato nell'usare un termine, io ho fatto riferimento al festival, ho detto praticamente Van Gogh era considerato una merda. Sì. Loro hanno riso, ragazzi, ma io ho fatto questa raffinata metafora, non potendo non ridere. È sì, chiaro. Appunto, ma guardi il linguaggio a cui loro sono oggi sono abituati. Ma che c'entra con Celentano? Siamo alla ricerca di aggettivi. Guardi, ecco l'esordio di Luca e Paolo, è stato fatto di cazzo, coglione e via dicendo, insomma. Questa è la cultura imperante. Quindi lei si è offeso per le parolacce, ma guardi, le parolacce onestamente che lei ha ampiamente profuso anche nella mia trasmissione, contaminando con questa sorta di idea anche questo programma, comunque se doveva esprimere il suo parere l'ha fatto. È la cosa che meno mi scandalizza, sono le parolacce dette all'oratorio per scandalizzare il gestore di quel locale, non hanno molto senso. 800240024, sentiamo un altro ascoltatore, Marco, vediamo se riusciamo a dire qualcosa di un pochino più concreto che parolacce contro le parolacce. Sì, buongiorno. No, io magari vado, non so se vado contro tendenza, perché poi vedendo ieri su internet a me è piaciuto, nel senso quando io ho attaccato la televisione pensavo di vedere sicuramente un Morandi che stava in imbarazzo, perché sicuramente quello che è successo è creato un imbarazzo di questa ragazza che adesso si dice che siano resi o quant'altro. Ma adesso mi non aspettavo... so, io non l'ho letto, io ho visto c'era un collare al collo, quindi immagino che ha fatto dei movimenti sbagliati con il collo e quindi è rimasta incriccata, bloccata, ma capita ogni tanto, ognuno fa dei... Esatto, poi alla fine anche questo è Sanremo, poi il discorso, non so, Adriano Celentano ha fatto delle trasmissioni vecchie che noi abbiamo visto tutti quanti, quindi ci si è potuto aspettare. Ma posso dire, il vantaggio è stato che abbiamo visto Belen Rodriguez, l'unica cosa degna di essere vista, era splendida, anche divertente, simpatica. Nel senso almeno da quella parte mi sono divertito, poi dall'altra parte con il tablet ho visto sicuramente i suoi tweet, dall'altra parte ho visto un discorso critico, però come spettatore semplice che sta davanti a un televisore. L'ha trovato un buono spettacolo. Ho trovato, sì, effettivamente che Celentano normale. Ma è inutile che noi ci ammantiamo di raffinatezze di gusto eccelse e storciamo il naso. Se come spettacolo popolare ha avuto successo, hanno avuto ragione loro. Resta il nostro diritto di esprimerci in termini dei nostri punti di riferimento estetici. Io l'ho trovato molto arraffazzonato, non ho trovato degli spunti intelligenti dal punto di vista della scrittura, però questo evidentemente a pretendere troppo non fa parte di Sanremo. 800240024, tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Oi, ciao. Cosa hai detto? Qualcuno? No, non ho capito. Come stai? Ma comunque stasera Hai detto una grande verità. Perché? Infatti è vero, tu non sei nessuno. Perché? Perché sottovaluti quelli bassi. Non sottovalutare quelli bassi. E chi li sottovaluta? E poi non esistono quelli bassi o quelli alti, esistono quelli giusti o quelli sbagliati. Ma certo, tu hai la verità in tasca, certo, è normale. Dall'alto di quel palco ti puoi permettere di dire quello che vuoi. Senti, ma secondo te io da che parte starei? No, tu per me sei praticamente normale. Cosa? Ma lo sentite? Ha detto praticamente normale. Certo, una bella botta di culo, sì, cosa... avere il privilegio di poter fare l'autore di Sanremo. Cavoli, voi pensate, cioè chi scrive sta roba è anche pagato. Ma però è giusto che sia così, se no sembra che uno dice per rosicamento. È giusto che sia così perché noi possiamo fare tutte le critiche dal pulpito della nostra altezzosità. Sanremo è stato un grande successo di pubblico, quindi evidentemente bisogna riconsiderare. Questa non è una macchina per tutti, non è uno spettacolo che tutti possono vedere, è una sorta di perfetta macchina di mantenimento per malati terminali. L'ha detto all'inizio Celentano, ha detto che in realtà malati terminali, non voglio offendere né mancare di rispetto a coloro che realmente trovano in questa situazione, dal punto di vista della creatività e della gioia, del desiderio di comprendere fino a fondo lo spirito del tempo in cui si vive. È una sorta di immobilizzazione, una sorta di cementificazione dell'immaginario, una sorta di epoca inesistente, fatta di gemelle Kessler, di Studio 1, di Carrà, di Pippi Baudi, di presentatori, di TV in bianco e nero, di bei tempi in cui tutti ci si voleva bene. Anche la pubblicità che inframmezzava Sanremo sembrava ispirata a Carosello. Ho rivisto quei set di cartoncino, ho rivisto i due fustini al prezzo di uno, ho rivisto il signore faceva vedere le lampadine che costavano poco. Perfetto, stupendo, meraviglioso spettacolo per Umarell. Ma chi non si sente nell'animo Umarell, cosa deve fare? 800240024 Giancarlo. Buongiorno, sono un anziano signore di 70 anni e mi ritengo di cultura medio-alta. E quindi lei era il bersaglio preferito di Sanremo? Praticamente sì. Però non si è divertito. Condivido pienamente quello che lei ha detto a proposito degli autori. Mi è sembrato, dal punto di vista degli interventi, scombinato, fatto male. Non ho capito l'intervento di Pupo nei confronti di Celentano e viceversa. Nessuno l'ha capito. Ah, ecco, allora la mia domanda di base era... Non se questa. Ce l'avevano con la consulta per il referendum sulla legge. Non capito da che parte riuscito. Stavano, però, onestamente. Non sono riuscita, e volevo appunto sollecitare da lei una risposta, dagli altri cortesi ascoltatori, un dibattito su, in tre parole, che voleva dire Celentano? Ma non voleva dire nulla, a me sembrava un po' con lo sfogo di quei poverini che a un certo punto hanno perso un po' il controllo della loro lucidità, vuoi per l'età avanzata, vuoi per il consumo di grappini all'osteria del paese o cose del genere, che vogliono parlare di politica, vogliono parlare dei massimi sistemi e urlano, vanno per strada e urlano, dicono governo, ladro, non si è capito, onestamente, quella sorta di terzetto, Pupo, Morandi, Celentano, non si è capito con chi ce l'avessero, hanno parlato di un referendum senza specificare quale, hanno parlato che è bello essere... piccoli dentro, bassi dentro, non si è capito bene. Evidentemente c'era un'idea di testo, immagino che qualche idea avranno voluto mettercela dentro, ma lì è mancata qualche battuta e sono dimenticati per strada. È come quelle maestre, quando vogliono scrivere le maestre la recita scolastica, improvvisamente si sentono tutte delle grandi autrici teatrali, ci mettono il concentrato e tutte le velleità frustrate della loro carriera di maestre. Vorrebbero essere grandi autrici teatrali, si immaginano di essere del più grande teatro e esprimere la chiave di risoluzione ai problemi del mondo, ma poi viene fuori questo, una sconnessa recitina fatta da dilettanti. Marta Cagnola, da Sanremo. Eccoci qui, no, sono ammirata di fronte a questo dibattito, non mi stupisco. Riportaci però, con i piedi per terra, visto che sei brava. No, ma io vorrei tornare un po' con i piedi per terra su Celentano, visto che insomma la patina del tempo ammanta tutto di una luce più luminosa, più fanè, più gradevole. Beh, io ho visto soltanto delle pappette rosse un po' che andrebbero forse meglio coperte con un po' di cipria, che sarebbe stato meglio. Ma io ricordo con questa luce fanè il fantastico dell'87 che noi tutti citiamo. Celentano diventò famoso e sbancò l'Auditel per Viva la Foca, per Cambiate Canale. Non è mai stato, è sempre stato il profeta facile del qualunquismo. Mi stupisce lo stupore, perché tutto questo, insomma. No, no, ma non ci stupiamo, registriamo un dato però, che ha fatto teneramente schifo più del solito e ha avuto più successo di quello che uno potesse mai immaginare. È un'equazione che alla fine il risultato ci soddisfa, lo sappiamo che è così, siamo contenti di provare schifo per questa cosa, ma siamo, ahimè, dobbiamo cedere di fronte al fatto che la media della percezione di uno spettacolo nel nostro paese giustifica, anzi gratifica, questo tipo di spettacolo, quindi ci sta bene anche Sanremo, che dobbiamo dire. E poi vorrei dirti che l'ascoltatore di prima aveva ragione sulle parolacce, perché addirittura Gianni Morandi ha detto una parolaccia, e secondo me tutto questo si incunea nella traccia di Sanremo Social. Svecchiamo, facciamo tutto giovane, Facebook e anche parolacce. Però Gianni Morandi che dice le parolacce, per me è come quando si sono lasciati Albano e Romina. Sono delle cose che un po' mi turbano gli equilibri, insomma, i punti di riferimento. Ma secondo me non è una scelta ideologica, estetica, è più una sindrome di Tourette, è più una sorta di patologia degenerativa, per cui a un certo punto uno comincia a dire parolacce. Vorrei sentire però un comune amico e osservatore della realtà contemporanea, che noi consideriamo un punto di vista privilegiato, il suo perlomeno. Tommaso Labranca. Buongiorno, ciao. Gianni. Ciao Tommaso, tu hai visto, seguito naturalmente Sanremo, perché la prima serata non si può farne a meno, immagino. La risposta è purtroppo l'ho visto, me ne pento amaramente, ma d'altronde facevo altre cose mentre lo vedevo, preparavo scatole di cioccolatini, facevo ben altro. Ah, perché festeggiavi San Valentino? No, festeggerò un'altra cosa più avanti, ma senti, io non so perché vi siate tutti meravigliati per Celentano, che sono 50 anni che fa le stesse cose, ma nessuno si ricorda quel pezzo Mondo in Mi Settima. Il Mondo in Mi Settima, Celentano faceva esattamente, diceva esattamente le stesse cose, parlava male dei giornali, citava la guerra, poi ha ripreso gli elicotteri, i bombardamenti in numerosi suoi film. Cioè sono 50 anni che quest'uomo fa le stesse cose e voi vi meravigliate. E poi, a proposito degli autori, io non penso che gli autori abbiano scritto una sola parola di quanto detto da Celentano. E chi l'ha scritto? Ma quelle sono cose di Celentano, anche certe. La recitina, c'erano battute di. La recitina era stata scritta proprio, quello era un testo. Certo surrealismo che Celentano ha preso dall'ambiente milanese di Giannacci, Cocchi Renato e così via. Non puoi assegnarlo a Federico Moccia, che tra gli autori. Sì, Moccia era fra gli autori. Se consideri poi che... sì, però non c'erano segni di amore moccioso in tutto... No, ma non c'è niente, perché Luca e Paolo i testi se li sono fatti da loro. Papaleo è uno che va per i fatti suoi. L'unica cosa che questi autori hanno fatto è, signori di Pace, Panzeri e Pila, cioè non hanno fatto altro. La Canalis entra da destra, quello entra da sinistra. Quindi è un lavoro ancora più rubato da un certo punto di vista. E secondo me una cosa di cui bisogna parlare veramente male, lasciando perdere Celentano, Pupo e gli altri, è la regia. Io non ho mai visto un Sanremo così brutto. L'ho detto all'inizio della trasmissione. Scusami perché non t'ho sentito, però veramente con le pubblicità che partivano mentre questi parlavano ancora è come chiudere una telefonata in faccia a uno che ti sta parlando. Ma no, poi soprattutto non c'è stata quei normali tempi liturgici di cui c'è un cantante e si dice poi nulla, era una sorta di scaletta assolutamente improvvisata, sembrava che stesse accadendo qualcosa, che combesse qualcosa su Sanremo, non si è capito di cosa, però non si è capito. Cioè noi vediamo ogni giorno, o ce li scarichiamo, li vediamo sulle reti satellitari, quelle private eccetera, i serial americani, per esempio adesso mi sto rivedendo Modern Family, e tu vedi questo montaggio innovativo, la camera che si muove in un certo modo, la recitazione, i testi, e poi dici ma perché in Italia dobbiamo fare ancora queste cose recitate male, perché era una recitazione pessima, tant'è che poi quando c'erano i promo della nuova fiction con la Pivetti, era tutto sullo stesso stile, cioè recitato male, tutto cacciarone, tutto un po' paesaggio. Però la risposta ce l'ha data Marta Cagnola, leggendoci i dati d'ascolto, perché quel pubblico residuale e catatonico che rappresenta i gestori dei dati d'ascolto dei programmi Rai, in realtà è piaciuto questo spettacolo, perché investire nell'innovare quando va benissimo questa roba qua? Ah no, infatti, perché invece allora non dovresti fare neanche più tu il tuo programma, capisci? Cioè mettiamo Pupo anche su Radio 24, che tanto è già su un altro canale, non si sa perché poi tutta questa luce su Pupo, e viviamo soltanto di pupate e celentanate a questo punto. È inutile darsi da fare per pensare di fare uno scatto in più se poi il pubblico non c'è. Ma secondo me lo scatto in più sarà fatto quando Dio volendo, il più tardi possibile, il campione Auditel per una sorta di fisiologica fine anagrafica non esisterà più. Probabilmente speriamo che quelli che noi oggi chiamiamo Umarel, che in fondo siamo anche noi, avranno possibilità di chiedere qualcosa di lievemente diverso. E allora sentiamo perché la Consulta avrebbe sbagliato. Beh, bocciando il referendum ha tolto la parola ai cittadini. E questo significa ferire in petto, in pieno petto, la democrazia. Non si possono buttare nel cestino un milione. Non si possono buttare nel cestino. Non si. Aspetta un attimo, no, perché. Sì. Io ricordo che ai bei tempi la squadra dei tecnici audio che andava a Sanremo era una sorta di guerrieri ninja, tutto l'anno stavano chiusi in una stanza, sono quelli che vanno a Sanremo, partivano mesi prima, erano delle persone che usavano i microfoni come un maestro di spada usa una katana, erano perfetta la ripresa di Sanremo, cioè venivano i paesi stranieri a vedere quanto fosse perfetta, erano signori che avevano tutti una certa età, avevano passato gli anni sulle console, quindi Sanremo era comunque una macchina perfetta, almeno dal punto di vista della qualità. Questo Sanremo ha fatto schifo anche da questo punto di vista, non si sentiva. Microfoni, popping, Larsen, tutti i possibili effettacci che possono accadere a un microfono accadevano. È stata una cosa disastrosa anche dal punto di vista. Ma perché anche questa caduta tecnica? Perché le macchinette per votare che non funzionano, i microfoni che non vanno, la regia che non sa nemmeno dove prendere, perché una scaletta che non ha il desiderio e la volontà di accompagnare l'ascoltatore in una ritmica piacevole fatta di canzoni, di intrattenimento, di giusta e necessaria pubblicità? Perché? Perché tanto nessuno protesta. Melog, la realtà condivisa. Come ti chiami? Italia. Resta un po' qui. Non posso. Perché? Le cose non vanno bene ed io sto perdendo la mia bellezza. Tornerai? Sì, se gli italiani lo vorranno. Questa è una sinistra profezia. Tornerà la Canalis anche l'anno prossimo a Sanremo, questa volta ha fatto l'Italia, scalza, ai serve Italia, di Dolore Ostello, guarda, camminava così, scalza, e anche lei poverina, l'hanno chiamata all'ultimo momento perché l'altra si era incriccata il collo genuflettendosi, quindi ha avuto un problema, e quindi hanno chiamato lei e Belen all'ultimo momento, anche troppo hanno fatto, hanno cantato la canzoncina, sono state spiritosine, Belen si era messa il vestito che le stava piccola di Vanca e quindi le tette rischiano di schizzar fuori, è stato l'unico momento di vera e fantomatica suspense di tutto Sanremo. 800240024, stiamo mestamente facendo schifo a noi stessi, diciamo la verità, parlando di questo festival di Sanremo, ma è qualcosa che è accaduto, è qualcosa che ha riempito l'immaginario comune, anche solo per stare da una parte o dall'altra, anche solo per difendere i giornali offesi, per difendere l'idea di una critica offesa e via dicendo, anche soltanto semplicemente per riempire una mattina. Silvano. Sì, salve. Chiamo da Verona e non so, mi state sentendo? Benissimo. Ok, allora, quello che volevo dire è un po' questo. A me ha dato l'impressione sicuramente di una situazione molto sgangherata. E dopo mi ha due cose in particolare. Una, che lo spettacolo di Celentano era di fatto uno spettacolo, cioè era il peso dato a questo artista metteva assolutamente in secondo piano tutti gli altri artisti. Chiunque fossero gli altri artisti, questa mi è sempre stata una cosa non corretta anche proprio per lo spirito della manifestazione. Diciamo che le canzoni sono cominciate verso le 23:45, si è cominciato a sentire qualche canzone, prima c'è stato questa sorta di suppostone acido di Celentano. Allora, bello brutto che sia stato, e lì secondo me, cioè, a mio avviso, Celentano rimane un grande artista quando fa l'artista. Certe cose le avrebbe potute fare a teatro, però magari in uno spettacolo suo le vedo poco in un contesto come Sanremo, dove al centro deve esserci la grande musica, credo. Alcune battute sue mi piacciono anche, cioè il tocco per dire sulla questione Merkel-Sarkozy che vogliono armi in cambio degli aiuti, piuttosto che la questione della Consulta, possono anche essere interessanti. però sì, tutta una serie di altre cose assolutamente no. Sì, ma chi se ne frega quell'ora quando uno vuol vedere un festival della canzone, oserei dire io. C'è spazio per tutto, abbiamo un'infinità di chance di seguire interessanti programmi di approfondimento giornalistico. Matteo. Buongiorno. A me sembrava che la recitina Morandi, Celentano, Pupo, mi sembrava di essere catapultati in quei matrimoni di persone un po' così, quei maschiacci un po' che approfittano il giorno del matrimonio per ubriacarsi, che un po' alticci improvvisano al microfono magari della banda che sta suonando le varie canzoni che si ascoltano ai matrimoni, improvvisino quei recital tra tre persone un po' alticce, magari con la cravatta annodata sulla fronte, che fanno un po' i bulli in sala mentre gli altri un po' li ascoltano perché devono. Cioè, mi sembrava tutto così raffazzonato, imbarazzante. Sì, c'ha ragione, ma noi abbiamo avuto varie possibilità di definirlo, che ha parlato dell'osteria, che ha parlato del matto che sragiona e parla di politica, che lei dice gli ubriachi alticci, satolli e attizzati, perché il matrimonio è sempre una grande occasione di attizzamento, attizzamento inutile che poi va a finire in nulla, a finire in una sorta di crapula alimentare gastronomica, che stanno lì e approfittano di questo piccolo palcoscenico di parenti dello sposo e parenti della sposa e si esibiscono. Lo accetto questo. Daniela. Buongiorno, Daniela di Verona, terremotata o quasi. Beh, niente, volevo dirle che a me invece Celentano è piaciuto moltissimo, ma semplicemente per il fatto che purtroppo abbiamo bisogno di Celentano perché non abbiamo più nessun maestro. Celentano è un maestro di vita. È un maestro di vita, quello che ci è rimasto, cioè non è che Celentano è il massimo del maestro di vita. Io capisco che la sto dicendo grossa, però io da cristiana ne ho passate di tutti i colori. Finché non viene un altro messia, no, uno si deve accontentare di Celentano. Purtroppo lei mi dica, a parte Don Gallo e Celentano, tra virgolette, e qualche prete illuminato che abbiamo, e qualche persona che non... Ma perché lo assimila ai preti? Scusi, perché lo assimila ai preti? Che ha a che fare con i preti, Celentano? No, allora le spiego, il messaggio di vita, il messaggio cristiano, è un messaggio religioso che può essere anche universale di qualsiasi religione. Celentano si limita semplicemente a dire quali sono i valori della vita, che è l'amore, ad esempio? sostanzialmente sì. L'amore. Lui ieri sera voleva parlare di amore, amore universale, amore tra religioni, tra razze, amore tra persone, tutto quello che non abbiamo più, e nessuno più ci dice che ci manca l'amore. L'amore è rispetto, l'amore a me non è manca, onestamente, non credo l'amore che... Non è rubare. Vabbè, signora, adesso non può prendere. Che... Scusi, no, signora, se continui. Ma chi ce lo dice ad alta voce? Chi ce lo dice a parte Celentano? Mi dica. Non lo so, posso solo segarla, perché avere un Celentano in gonnella all'interno di Mello che mi porta via spazio lo trovo inutile. Marta Cagnola. No, io lo... No, abbiamo avuto però, vedi, l'esatta rappresentazione del pubblico in prima fila. No, no, ma io sono d'accordo, messaggio di amore universale, fatto eccezione per Aldo Grasso, però, perché evidentemente criticarlo lo spinge ad amare un po' meno. Sì, però prendersela col critico, onestamente, io non ho mai avuto rapporti di lieci con Aldo Grasso, è un po' una cialtronata, il critico scrive di televisione, perché devi dire il critico dice cavolate, dice quello che pensa, è il suo giudizio, lecito a lui dirlo. Gliel'aveva giurata, l'aveva già anticipato, l'aveva già scritto sul suo sito... ne pagherai le conseguenze. Magari chiunque di noi avrebbe voluto essere attaccato da Celentano ieri, oggi saremmo stati sui giornali. È un favore immenso, è un grande esempio di è un regalo essere attaccati da Celentano in prima serata di Sanremo. Che ne pensi te, Tommaso? Beh sì, in effetti è un regalo, ma quello che non capisco è che la gente viva veramente in un mondo di zucchero filato, non lo so, questa di frutta candita, come cantava Morandi, cioè che pensa sempre che in passato ci si volesse più bene. Ma dico, non hanno mai studiato le guerre che sono state in passato, cioè le stragi sono state in passato, e non dico negli anni 40 del Novecento, ma dall'anno zero in poi. Niente, loro sono convinti che prima non ci fossero guerre, che tutti si amavano. La gente si volesse bene. Sì, sì, ma non è assolutamente così. Cioè, se l'uomo, adesso, visto che stanno dicendo tante parolacce, evito di dirne una io, ma se l'uomo è fatto in un certo modo, di carattere, sarà sempre così, Celentano o meno. Cioè, è la chiave di tutti i predicatori di ultima generazione, l'amore universale, vogliamoci bene, no, le guerre, diciamo sono 40-50 anni che su questo si fonda tutto un pensiero. Sì, da John Lennon in poi, ma tutta gente poi molto ricca, quello mi dà molto fastidio, perché io accetto San Francesco che mi dica certe cose, ma non Celentano. Io ti ho detto, ho parlato dei monaci dell'esicasmo, quelli che stanno nel deserto, e giustamente erano una sorta di simulacri scheletriti che dicevano questo, ma lo dicevano perché non avevano nulla loro. Silenzio, per favore, è importante. C'è un campo di girasoli a Cortona in Arezzo, c'è un campo di paraculi a Cortina d'Ampezzo. Signori, Rocco Papaleo, Elisabetta Canali, Belen Rodriguez vi salutano. Signori, Marta Cagnola, Tommaso Labranca, il professor Chiappini e Fabrizio Intonte e Gianluca Nicoletti vi salutano.